decidi qual è l'input che gli devi mettere, che può essere mono, stereo, midi, no input. Adesso sento la mia voce, Pino. Hai abilità, però, vedi, Pino, Eh? adesso sto Io sentendo anche la pure. mia voce che ritorna. Pure io Perché sento la tu mia hai voce che abilitato ritorna. il microfono, però non il microfono con l'ingresso jack. Il tuo computer portatile ha un microfonino che prende proprio la voce, capito cosa voglio Sì, dire? certo. Tu devi sentare, ma da un computer, Pino, non da qua, ma devi andare. Hai visto sotto dove c'è scritto l'orario e la data? Vado al pannello di controllo. No, hai visto dove c'hai sotto in Sì, basso a sul destra, computer c'è orario e data, sì. l'orario e la data, c'è anche un microfonino, uno speaker. È vero, c'hai una cavita, un woofer. E se tu clicchi col tasto destro, dice dispositivi di registro di Ah. produzione, di Ok, registrazione. sì. Deve andare in dispositivi di registrazione. Sì. Dimmi che cosa vedi, questo variabilista. Microfono dispositivo high definition audio, dispositivo predefinito, Ok. e poi microfono dispositivo high definition audio pronto. Qua devi Ed è trovare, spuntato il Pino. primo. Prova, devi trovare qua quello che ti abilita, anziché il microfonino del computer, no? Sì. Sì. Abilita l'ingresso jack del computer, capito? Comunque io suonando adesso c'è il V-meter che si accende. Sì, si accende perché adesso però prende il microfono, Ah, però anche capito. così si potrebbe fare, lo sai, perché se tu suoni in Se cuffia suono con la il problema è che chitarra non c'è il acustica, ritorno. sì. Il problema è che io sento il ritorno anche della mia voce, capito? Certo. Io adesso sento anche E la mia provo voce. a perché è spuntato il primo microfono. Provo a spuntare il secondo. Prova a spuntare il secondo, sì. Adesso sento il ritorno della mia voce. Niente, rimane spuntato verde il primo sempre. In registrazione. Vado in riproduzione. No, devi stare in registrazione Per sempre. modificare le impostazioni di un dispositivo di registrazione. Questo, anche la tua voce, cioè, tu stai andando in registrazione dal Sì. microfono del computer. Sì. Tutto sommato, se ti metti la cuffia e non fai sentire quello che esce dal computer, segui e lo senti solo tu in cuffia, potrebbe pure andare così, perché comunque viene preso il segnale Ma io il basso non lo sento. quello perché non lo senti, non te lo so dire. Il basso elettrico non lo sento. Vediamo com'è venuto. Secondo me si deve Vedi, c'è il ritorno alla tua voce. configurare questo ingresso, secondo me. Aspetta un Ma attimo, che faccio? sente, devi smanettare qua perché questo va via da computer a computer. Se fossi là io te la aggiusterei io. Però devi Ah. smanettarci un poco qui. Prova che Certo. ci riesci, staci un pochettino e vedi che ci riesci. Devi fare in modo che in registrazione ci vada, non il microfono del computer.